Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze stima l'evasione fiscale al livello dei 220 ai 250 miliardi di euro. Su 220-250 miliardi di euro si potrebbe anche stimare spannometricamente che quello che lo Stato potrebbe recuperare da questo imponibile, naturalmente, che viene sottratto al fisco, qualcosa come 80-90 miliardi. Quella che avete appena sentito è la dichiarazione ufficiale rilasciata nel 2009 dall'allora comandante generale della Guardia di Finanza Cosimo D'Arrigo sui dati dell'evasione fiscale in Italia. È il calcolo più recente che abbiamo a disposizione. La cifra è impressionante, parla da sola. Che il non pagare le tasse sia una caratteristica saliente del nostro paese è un dato di fatto e affonda le radici in tempi molto lontani. La nostra storia è affollata di evasori fiscali che in ogni tempo hanno escogitato truffe sempre più ingegnose per non pagare quanto dovuto allo Stato. L'elenco delle persone a cui vengono contestati i reati fiscali è lungo e pieno di nomi eccellenti. Il billionaire sarebbe nei guai con il fisco, contestate irregolarità nei libri contabili per 1 milione di euro. Valentino è ricomparso così, maglietta a righe, sguardo inquieto. Il fisco gli chiede 112 milioni di euro. La procura di Napoli contesta Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, un'evasione fiscale per 2 milioni di euro. Nella vita e nella professione hanno rotto da tempo e persino nei processi Fabrizio Coronel e Le Mora sembravano aver preso due strade diverse. Oggi si ritrovano vicini in un avviso di conclusione indagini. L'agente dei VIP accusato di reati fiscali per 4 milioni di euro, corona per una banca rotta da circa 6 milioni. Vere o false che siano, si tratta comunque di accuse che riguardano il non pagamento delle tasse dovute allo Stato. Un reato grave, senza ombra di dubbio, ma decisamente meno grave di un omicidio. Eppure la storia è stata testimone delle gesta di un italiano divenuto molto famoso per la sua ferocia e per i terribili crimini commessi, ma che per ironia della sorte viene arrestato e processato per non avere pagato le tasse. Oggi Destini Incrociati vuole raccontarvi l'incredibile vicenda di quest'uomo che ha commesso nel corso della sua vita una serie infinita di crimini orrendi, omicidi, assassini, stragi sanguinose, riuscendo sempre a farla franca, ma facendosi incastrare dalle forze dell'ordine per frode fiscale. È il 7 ottobre del 1931 e in un'aula di tribunale di Chicago un avvocato sta tenendo la sua arringa finale. E come risulta quindi dagli incartamenti prodotti dall'accusa, signori giurati, stiamo parlando di evasione fiscale per più di 2 milioni di dollari, una cifra esorbitante. Chiedo quindi per l'imputato il massimo della pena, 11 anni. È l'avvocato George E.Q. Johnson, un professionista decisamente coraggioso che ha l'ardire di mettersi contro un vero boss della malavita organizzata. Ma chi è l'uomo che siede sul banco degli imputati? Questo personaggio considerato un pericolo pubblico numero uno. Un uomo tanto furbo da riuscire a farla sempre in barba alla polizia di Chicago e a non farsi mai trovare senza un alibi, ogni qualvolta si verifica un reato a lui attribuibile, e il cui unico sbaglio, a quanto pare, è quello di non avere sorvegliato abbastanza i suoi contabili. Attorniato dai suoi legali, egli siede in aula, elegantissimo, impettito, è piuttosto robusto e una profonda cicatrice gli sfregia la guancia sinistra. Lui se la copre con una mano. È un'abitudine che ha da quando gli è stata fatta, perché non gli piace e in fondo se ne vergogna. Gli occhi sono vivi, acuti, e soprattutto la sua persona emana un che di sicurezza, di spavalderia, che lo rende al tempo stesso attraente e pericoloso. Si vede benissimo che non è per niente preoccupato. Il suo nome ancora oggi è sinonimo di malavita e reati contro lo Stato. Un nome che fa tremare. Al Capone. Come ha fatto Al Capone a diventare il boss dei boss, a raggiungere le vette della malavita organizzata di Chicago, la più temibile, la più agguerrita d'America? Per scoprirlo, dobbiamo tornare parecchio indietro nel tempo, alla fine del 1800, e trasferirci a Brooklyn. È nel malfamato distretto di Navy Yard, che nel 1894 trovano casa i signori Caponi, provenienti da Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Sono gli anni della grande immigrazione italiana in America e a Ellis Island l'ispettore sbaglia a trascrivere il nome della famiglia, che diviene per sempre Capone. Gabriele e Teresina hanno già due figli maschi nati in Italia. Nel 1899 nasce il terzo genito, Alphonse. Lo scrittore Robert Schoenberg, autore del bestseller Mr. Capone, ricorda così la figura dei suoi genitori. Aveva due genitori davvero ammirevoli. Fine. Sua madre era una donna molto religiosa e lo fu fino alla fine dei suoi giorni. Suo padre era un barbiere assolutamente rispettabile. Non c'era motivo di credere che anche uno solo dei loro figli sarebbe diventato un cittadino disonesto. E invece diventarono tutti delinquenti. Per i figli degli emigranti italiani a Brooklyn non è che ci siano poi tante opportunità né di studiare né di trovare un lavoro. Alphonse Gabriel Capone, che si fa chiamare Al, segue in strada i suoi fratelli più grandi ed entra ben presto a far parte della microcriminalità di Brooklyn. Non ha più di 10 anni. Sui banchi di scuola proprio non ci sta bene e un giorno in cui un insegnante lo riprende severamente viene fuori quella personalità che lo porterà ad essere considerato il pericolo pubblico numero uno di Chicago. Un fuoco di ribellione lo assale dall'interno e lui non ragiona più. Colpisce il maestro con tutta la sua forza, un gesto che gli costa l'espulsione. Ma lui non si scompone, ha ben altro in mente che lo studio. Suo padre Gabriel è un uomo onesto, non vuole che i figli stiano in giro tutto il giorno per le strade, non vuole che frequentino certi personaggi poco raccomandabili e soprattutto vuole che comprendano il valore dei soldi. Ecco il racconto di Bill Balsamo, esperto di storia della mafia. Gabriel Capone wanted his boys. Gabriel Capone voleva che i ragazzi conoscessero il valore di un dollaro. Quando i suoi figli raggiunsero l'età di 11-12 anni, gli costruiva una scatola da lustrascarpe. Qualcuno gli aveva detto quali erano le strade dove poteva mandare i figli a lavorare e lui li spronava a tirar su qualche dollaro. Ma fare il lustrascarpe non è la massima aspirazione di Al. Con i suoi compari si ritrova sempre ai Five Points, a Manhattan, il punto dove convergono 5 strade, Anthony, Orange, Mulberry, Cross e Little Water. Il capo della banda dei Five Pointers, come si fanno chiamare, è Frankie Yale, proprietario di un locale a Coney Island, l'Harvard Inn. Frankie e Al diventano molto amici e il boss, che ha 6 o 7 anni più di Al, gli spiega come si deve vestire, come deve muoversi, come deve guardare la gente, lo stile che tutta la sua persona deve emanare per farsi rispettare e conquistare la fiducia di quelli più potenti di lui. Al, ascolta il tuo amico Frankie, guardati nello specchio, concentrati e prova. Prova fin quando non trovi il perfetto sguardo da pericoloso. Non devi nemmeno aprire la bocca. Basta che tu guardi un uomo con quegli occhi. È il tuo stesso sguardo che deve dirgli: oh, o fai come ti dico io o ti uccido. Al non se lo fa dire 2 volte. La mattina, mentre si sta facendo la barba, prova le diverse espressioni. I suoi occhi sono convincenti. Lo sguardo sostiene la prova. Le sopracciglia si increspano al punto giusto. Ci siamo. È soddisfatto del risultato. Nel locale di Frankie inizia a fare il buttafuori e dopo qualche tempo è protagonista di un episodio che gli cambia per sempre i connotati. C'è una ragazza che piace molto al 18enne Al Capone. Si chiama Lina. Una sera la vede passare nel locale. Lui non è certo il tipo che si frena. Quello che pensa lo dice. Cara, devo ammettere che hai davvero uno splendido fondoschiena. Veramente, eh? Lo dico per farti un complimento. Frank Galluccio, un piccolo delinquente della zona, fratello della ragazza, non esita. È un'offesa alla sua famiglia e lui si considera un uomo d'onore. Quel Capone si dà troppe arie per i suoi gusti. Si avvicina a lui, estrae il pugnale a serramanico e gli sfregia la guancia sinistra. Al cade a terra. Lo squarcio è ampio, gli provoca una forte emorragia e i suoi amici lo vorrebbero portare da un dottore, ma lui dai medici non ci va. La ferita si rimargina da sola e rimane un segno talmente evidente che Capone diviene per tutti Scarface, lo sfregiato, un soprannome che non gli piace affatto. Nonostante questo, Al non si vendica mai di Galluccio. Probabilmente pensa che sia un uomo d'onore che ha semplicemente difeso la propria sorella. In compenso, fa fuori 2 uomini di una banda rivale e benché coperto dall'omertà e da poliziotti corrotti, Frankie Yale gli fa cambiare aria, portandolo così dal grande boss Johnny Torrio. Al è pronto per Chicago. They had the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago, Chicago, that's my hometown. La Chicago degli anni venti è il cuore della delinquenza e della corruzione americana. Il crimine dilaga, mettendo le mani su tutte le forme di possibile guadagno: prostituzione, gioco d'azzardo, liquori. I locali notturni fioriscono uno dietro l'altro e le bande di gangster rivali si contendono a suon di colpi di pistola e di mitra il dominio della città. Nel gennaio del 1920 una legge favorisce incredibilmente i guadagni della malavita. Il proibizionismo delle bevande alcoliche diviene esecutivo. Bisognerà attendere il 1932 e un presidente molto illuminato, Franklin Delano Roosevelt, perché venga abolito e le cose cambino, ponendo fine ad anni e anni di guadagni illeciti da parte della malavita organizzata. In 1932, the Democratic Party's candidate for president proclaimed: "We advocate the repeal of the 18th Amendment." Ma per il momento si tratta di un colpo fortunato per i malavitosi. Al Capone sa perfettamente che la gente non smetterà di bere. Quando viene a sapere della decisione del governo, si trova, guarda caso, proprio seduto al bar del locale di Johnny Torrio e comprende immediatamente che questo per lui significa scalare i vertici dell'organizzazione. C'è bisogno di un uomo che abbia muscoli e cervello, uno che non abbia paura di niente, e lui è quello giusto. Ecco perché brinda felice all'avvento del proibizionismo con un bel bicchiere di whisky. Ma prima deve dimostrare fedeltà e obbedienza se vuole conquistarsi la fiducia di Torrio. L'occasione si presenta quasi subito. Gli viene ordinato di far fuori Big Jim Colosimo, noto gangster italo-americano, esponente di punta della Mano Nera. Poco importa se Colosimo è anche lo zio di Torrio. Lui lo vuole morto perché non è d'accordo sulla sua idea di sfruttare al massimo i vantaggi della nuova legge sugli alcolici. Al Capone non ci vede nulla di strano. Prepara la sua pistola con tutta la meticolosità che gli è abituale. Poi aspetta Colosimo all'ingresso del suo club e lo fredda con tre colpi ben piazzati. I molti testimoni vengono colti da improvvisa amnesia e la polizia di Chicago non ha prove per incastrare il giovanissimo assassino. Hall ha solo 21 anni e diventa socio a tutti gli effetti di Torrio. Ha ottenuto quello che voleva. La sua carriera decolla in maniera strepitosa all'interno della malavita organizzata. È determinato, duro, senza pietà. Nonostante sia un assassino e sfrutti la prostituzione e il proibizionismo per commerciare illegalmente l'alcol, non vuole essere considerato alla stregua di un delinquente, piuttosto un gentiluomo con la passione per l'opera e per tutte le cose belle che il denaro può comprare. Adora il giallo, il verde, i suoi colori distintivi e indossa sempre un cappello di feltro morbido. Ecco come lo ricorda Rudy Horn, ex ballerino del locale di Torrio. Al mignolo portava un diamante di 11 carati e mezzo che allora valeva una fortuna. Diceva sempre che indossava solo biancheria intima di seta, rigorosamente italiana. Era gentilissimo e molto generoso con le ragazze. Una volta versò un drink sul vestito di una di loro. Lei era disperata perché era il suo abito, come dire, da lavoro e non aveva altro. Ma lui le regalò subito $25. Era una cifra enorme, ci si poteva comprare un intero guardaroba. Una svolta incredibile e inaspettata fa decollare la sua posizione all'interno dell'organizzazione. Torrio subisce un gravissimo attentato, è ferito seriamente e deve cedere lo scettro di comando. A tutti pare ovvio e scontato che vada a Capone. Anche se è molto giovane, sa il fatto suo e non esiste in tutta Chicago un altro spietato e determinato come lui. È così che nasce la leggenda di un ragazzo che a soli 22 anni tiene in mano tutto il business malavitoso di Chicago. Al Capone diventa The Big Fellow. Lo chiamano così perché è alto 1,80, parecchio per quegli anni, e pesa 80 kg. Mentre siede al tavolo più in vista del suo locale, che un tempo era stato di Jim Colosimo, Hall sente di essere arrivato proprio dove voleva. La città è ai suoi piedi. I poliziotti sono tutti corrotti e assoldati dalla sua organizzazione. Nessuno osa contrastarlo e gli affari vanno a gonfie vele. Il giurista Dennis Hoffman fa un'analisi precisa di quel periodo della carriera di Capone. Il proibizionismo fornì a Capone una lucrosa, eccitante opportunità di diventare milionario. Da un lato, il potenziale di profitto era estremamente elevato, mentre dall'altro la possibilità di essere arrestato, incarcerato e punito era molto scarsa. Quindi questa era la situazione ideale per Capone. Capone Ma mentre Hall si arricchisce con tanta facilità, mentre Chicago pare abituarsi sempre più a sparatori, omicidi, esplosioni distruttive contro le attività di coloro che non pagano la protezione delle bande dei gangster, mentre tutto questo succede, che cosa fa la polizia? È vero, la malavita dispone di ingenti somme di denaro, mentre la polizia no. Gli stipendi dei poliziotti sono piuttosto miseri e le bustarelle che i gangster passano sotto banco agli agenti perché chiudano un occhio sui loro loschi traffici fanno comodo. E non solo. Nei libri paga di Capone figurano nomi eccellenti. Addirittura il sindaco di Chicago, William Big Bill Hale Thompson Jr., la cui protezione politica permette al business degli alcolici di prosperare. Possibile che non ci sia nessuno abbastanza onesto e abbastanza coraggioso da opporsi all'avanzata del crimine e alla corruzione dilagante che a Chicago hanno il volto di Al Capone? Destini incrociati vi porta oggi nella Chicago degli anni 30, una città sotto tutti i riflettori della nazione americana per il tasso altissimo di criminalità e per l'impudenza con la quale le gang malavitose agiscono alla luce del sole. Padrone incontrastato, a cui fanno riferimento tutti i traffici illeciti della città, dalla prostituzione al gioco d'azzardo, dall'estorsione al commercio illegale di alcolici, è lui, The Big Fellow, meglio noto come Scarface, Al Capone. Pur non avendo alcuna pendenza con la giustizia, in quanto la sua organizzazione corrompe polizia e classe politica, pur non avendo un solo nemico abbastanza coraggioso da contrastarlo e pur non essendoci prove a suo carico, tutti sanno che è Capone, il maggiore responsabile del degrado che si respira in città. È lui il mandante degli efferati omicidi che si compiono quasi giornalmente a Chicago, anche perché la tecnica è sempre la stessa, ed è proprio lui che se l'è inventata. John Binder, esperto della vita del gangster, la descrive in questo modo. Era lui che ordinava quegli omicidi. Quasi sempre si trattava di testimoni di qualche crimine, oppure di gente che si frapponeva fra lui e i suoi affari. La tecnica che aveva inventato era davvero ingegnosa. Si affittava un appartamento di fronte alla casa della vittima. Si studiavano le sue mosse e i suoi orari e poi, al momento ritenuto più opportuno, uno dei cecchini selezionati dall'organizzazione uccideva il malcapitato con un fucile di precisione. Non c'era via di scampo né margine d'errore. È questo il comportamento di un uomo che non teme nulla, che sa di poter contare su appoggi politici, sulla connivenza della polizia, su un'organizzazione assolutamente perfetta. Ma non ha fatto i conti con il destino, che gli mette sulla strada un uomo diverso dagli altri. Un uomo che non ha paura di lui, che non è interessato ai suoi soldi, che vuole restituire la pace e la vivibilità alla sua città. Un funzionario integerrimo, un poliziotto incorruttibile, mosca bianca, nella Chicago di quegli anni. Quest'uomo siede alla sua scrivania presso il Dipartimento del Tesoro. È un agente federale ed è già da qualche anno che segue l'attività di Al Capone. Sul suo tavolo, gli incartamenti relativi alle attività del boss della malavita formano pile sempre più alte. Il compito che si prefigge pare irraggiungibile, eppure lui è convinto che prima o poi riuscirà a incastrare Scarface. Quest'uomo sta per incrociare il suo destino con quello di Al Capone e il suo nome è Elliot Ness. Elliot Ness. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America è un dicastero del governo federale e si occupa della gestione del debito pubblico. Tra le sue funzioni vi è la lotta all'evasione fiscale, l'emissione di monete e di francobolli e la supervisione sulle operazioni finanziarie in generale. È il dipartimento più antico, insieme a quello della guerra. Risale infatti al 1789. È nella sua sede di Chicago che lavora Elliot Ness. Il dipartimento ha ricevuto pressioni dal governo perché si trovi qualcosa su Capone. Se non lo si può incastrare per i delitti che commette, in quanto ha sempre un alibi pronto, allora bisogna aggirare l'ostacolo. Ness sa bene che Capone investe sempre una parte rilevante dei ricavati delle sue attività illecite in attività del tutto legali, separando le gestioni contabili e potendo quindi contare su introiti di copertura non meno rilevanti di quelli originari. Chiede quindi al governo che vari un emendamento straordinario: tassare i redditi provenienti dalle attività illecite. È una follia, ma l'avallo governativo arriva. Elliot Ness è nel suo ufficio quando gli comunicano la notizia. Finalmente a carta bianca può mettere le mani sui conti della vasta e criminosa attività di Capone. Prima o poi, ne è certo, il potentissimo Scarface commetterà anche lui un errore. Mentre negli uffici del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, Elliot Ness sta organizzando un pool di investigatori per incastrare Al Capone, il gangster ha preso la sua decisione. Non vuole dividere la città con nessun altro. La banda rivale, l'unica che sia rimasta e che cerca di dargli del filo da torcere nel mercato clandestino degli alcolici, è la North Side Gang degli irlandesi, capeggiata da Dino Bennion e George Bugs Moran. Hall si trova in Florida e dalla sua camera d'albergo sta organizzando quello che passerà alla storia come il più sanguinoso regolamento di conti della malavita, la strage di San Valentino. È il 14 febbraio del 1929 quando cinque dei suoi uomini entrano al 2122 di North Clark Street vestiti da poliziotti. Come se si trattasse di una normale perquisizione, mettono al muro i sette presenti, tutti i luogotenenti dell'organizzazione di O'Banion, e li fanno fuori fucilandoli alla schiena e distruggendo l'organizzazione. Lawrence Berggren, autore del libro Capone, The Man and the Era, non ha dubbi circa l'efferatezza di questo crimine. Il massacro di San Valentino è stato il colpo più clamoroso e complesso nella storia criminale del nostro paese. E probabilmente il più celebre. Elliot Ness non può più aspettare. Le azioni di Capone si fanno sempre più sanguinose e la polizia di Chicago viene definita da tutti in balia dello spavaldo Scarface. Organizza quindi una squadra di uomini al di sopra di ogni sospetto, un pool di super esperti e funzionari incorruttibili che si guadagnano il soprannome di intoccabili. Costoro si mettono alle costole di Al Capone e della sua organizzazione, analizzando ogni sua più piccola azione finanziaria. Ma il boss non ha nulla di intestato. Agisce sempre attraverso dei prestanome e le attività illecite vengono gestite tramite dei codici. Questa vicenda viene magistralmente raccontata da Brian De Palma nello stupendo film Gli Intoccabili, che vanta un cast eccezionale. Kevin Costner nel ruolo di Elliot Ness, Robert De Niro in quello di Al Capone, Sean Connery e Andy Garcia in quello di due ufficiali di polizia facenti parte della squadra di Ness. Lo sai cos'è un giuramento di sangue, signor Ness? Sì. Bene, ne hai appena fatto uno. Come avrà saputo Capone dell'incursione che hai fatto l'altra notte? Glielo avrà detto uno degli agenti. Certo. Benvenuto a Chicago. Questa città puzza come un casino da quattro soldi. La prima cosa è, di chi puoi fidarti? Da Ed. Di nessuno. Dei poliziotti nessuno, perché nessuno ti vuole qui. Nessuno. George Stone. Qual è il tuo vero nome? Giuseppe Petri. Ecco, lo sapevo. Non ci mancava che questo, un italiano nella squadra. E cosa ha detto? Che sei un fottuto bugiardo e che appartieni a una razza di ladri. Sono sempre meglio di lei, porco irlandese puzzolente. Fare un profondo respiro. Questo mi piace. Sì, piace anche a me. Fai parte del Dipartimento del Tesoro, ragazzo. Elliot Ness. Gli intoccabili si mettono al lavoro. Spulciano i libri contabili delle società di Scarface. Cercano collegamenti tra le sue attività lecite e quelle illecite. Ness vive praticamente in ufficio. Non dorme che poche ore per notte. Fa a turno con i suoi uomini per accelerare i controlli incrociati. Là fuori, Al Capone prosegue a pieno ritmo con la sua attività illegale e uccide tutti coloro che si frappongono tra lui e i suoi affari. Ness deve fare presto, non c'è più tempo. Sente il peso di quell'indagine, di certo la più difficile della sua vita. Finalmente, all'alba di un giorno fortunato, un suo collaboratore, uno dei contabili più accreditati del Dipartimento del Tesoro, lo sveglia. Per caso ha trovato un piccolo fogliettino nel quale è citato il nome di Capone. Ecco la chiave di volta dell'intera operazione. È solo un piccolo errore, ma pone in collegamento fra loro molte altre prove raccolte. Ora è possibile allestire un piano accusatorio vasto e articolato. Elliot Ness e gli intoccabili hanno fatto centro. Our words could only breathe. crossroads with different signs. Don't even know where we divide. Are you my enemy or my friend? Destini incrociati. A Destini Incrociati vi raccontiamo oggi l'incontro fra due uomini diametralmente opposti. L'uno spietato gangster della Chicago degli anni 30, durante il proibizionismo, che vive una vita di illegalità, estorsione, sfruttamento e crimine. L'altro, integerrimo agente federale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America. Questi due uomini sono Al Capone ed Elliot Ness. Il motivo del loro incontro, che avviene in più riprese, è dovuto alla strenua lotta che Ness instaura con la famigerata banda di Capone, che spadroneggia per la città da anni, trasformandola in un teatro di violenza. Non riuscendo a incastrare il gangster che compra il silenzio di testimoni e poliziotti, agendo indisturbato e diventando sempre più potente grazie ai suoi affari collegati al gioco d'azzardo, alla prostituzione e alla vendita illegale di alcolici, Ness e i suoi uomini, soprannominati gli Intoccabili, cercano di incastrare Al Capone per un reato di evasione fiscale. Dopo anni e anni di indagini, finalmente, un piccolo foglietto recante il nome di Capone permette il collegamento con una serie di attività illecite e finalmente si riescono a trovare le prove che permettono all'avvocato George E. Q. Johnson di portare Capone in tribunale. Ecco cosa ricorda il figlio del grande avvocato. Al Capone rese Chicago famosa per i gangster. Mio padre cercò di rendere Chicago famosa per la forza della sua legge e per la cultura. È vero, Chicago era la città di Al Capone, però era anche la città di mio padre, George Johnson. Ci vogliono anni di indagini serrate, ma infine il 5 giugno 1931 Alphonse Capone viene accusato di frode fiscale dal 1925 al 1929 con ben 23 capi di imputazione. Hall non si scompone. Assolda 5 gangster da New York per uccidere Ness e Johnson. Fortunatamente i servizi segreti intercettano i colloqui con i killer e Capone decide di rinunciare. Ness comincia ad avere la netta sensazione che il gangster si senta un po' meno al sicuro. Mentre l'avvocato viene scortato 24 ore su 24 da agenti dei servizi segreti, l'unico modo per rimanere in vita, Elliot Ness non accetta invece alcuna protezione. Ha spedito la sua famiglia lontano, in un posto segreto, questo sì, ma lui sa proteggersi da solo. Lui è un poliziotto. Messo alle strette, Scarface si fa consigliare dal suo avvocato, un losco individuo molto esperto nella difesa di delinquenti, ma molto poco in fatto di frodi fiscali, e chiede il patteggiamento. Il giudice però non ne vuole sapere e decide che si vada al dibattimento. Allora Capone sfodera la sua ultima potentissima arma, quella della corruzione. Compra l'intera giuria. E così, in quel pomeriggio del 7 ottobre 1931, mentre siede spavaldo sul banco degli imputati, Hall pensa che i giochi siano ormai fatti e guarda con aria di sfida Elliot Ness. Ma l'agente federale non si lascia intimidire. È tranquillo, è sicuro di sé. Sa bene quello che fa e sono anni che aspetta questo momento. La scena è descritta in maniera eccellente nel film Gli Intoccabili di Brian De Palma. Vostro onore, vorremmo ritirare la dichiarazione di non colpevolezza e dichiararci colpevoli. Colpevoli! Ordine in atto! Ordine! Sceriffo! Faccia assombrare l'aula! Vostro onore! Vostro onore! Grazie. Sceriffo! Faccia assombrare l'aula! Rallegramenti! Vostro onore! Vostro onore, che giustizia è questa? Ma non lo so. Cosa farà adesso? Continuerà a colpire l'organizzazione? Scusate. Lei c'entra con lo scambio delle giurie? Che cosa ne penserà in poco? Non si domanderà che razza di giustizia è questa? Vostro onore! Vostro onore! Ma che sta... Aspetta, lascia! Mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito. Non sento, che cosa hai detto? E non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito. Come? Mi ha sentito, Capone. Ah, vattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo. Sei solo chiacchiere e distintivo, chiacchiere e distintivo. Sei solo chiacchiere e distintivo. Chiacchiere e distintivo. Così Capone definisce il suo imperturbabile antagonista, colui che è riuscito a incastrare uno dei più grandi delinquenti della storia del crimine con una semplice accusa di evasione fiscale, Elliot Ness. Scarface non può credere alle proprie orecchie quando il giudice legge i 23 capi d'accusa e la relativa condanna. 11 anni di reclusione, la pena più alta mai comminata per frode fiscale. La sua reazione in aula è violentissima. Prende a pugni il suo avvocato, spedendolo all'ospedale. Uno spettacolo davvero divertente per gli intoccabili che siedono in prima fila per godersi lo spettacolo e la meritata vittoria. Anni di reclusione per frode fiscale. Ecco la pena che Al Capone deve scontare. L'opinione pubblica questa volta è tutta contro di lui. Incredibile, pensa l'agente federale Elliot Ness, artefice dell'indagine accusatoria che porta Capone dietro le sbarre. Incredibile davvero. La popolazione di Chicago ha visto con i propri occhi decine e decine di morti sulle sue strade, tutti omicidi commissionati dal terribile boss. Eppure, il nemico pubblico numero uno fa scalpore. Le sue azioni attirano sempre i media, che riempiono le pagine dei quotidiani con le sue terribili gesta. È quasi un divo. Ma ora condannato per frode fiscale, la gente lo giudica male. Milioni di americani che pagano regolarmente le tasse si sentono frodati con lo Stato. Uscendo dall'aula del tribunale, Hall si rivolge ai cronisti, per i quali ha rappresentato negli ultimi 10 anni una fonte inesauribile di notizie e di indubbio guadagno. Sì, sì, fatemi quante foto volete. Approfittatene ora, perché non mi vedrete per molto tempo. Elliot Ness e Al Capone, due uomini lontanissimi tra loro per mentalità, estrazione sociale e obiettivi di vita. Ness, colui che riesce a ripulire Chicago da Al Capone e a smantellare gradualmente la sua organizzazione malavitosa, nel giro di alcuni anni viene promosso e dà il via a una brillante carriera all'interno del Dipartimento del Tesoro, ma soprattutto entra di diritto nella storia. Capone, l'invincibile, colui che in pochissimi anni è appena uscito dall'adolescenza, è già un boss, the big fellow, il gangster che mette in ginocchio la polizia di Chicago e si ritrova la città ai suoi piedi, dopo un periodo nella prigione di Atlanta, finisce nel carcere più duro di tutta l'America, Alcatraz. Situata nella baia di San Francisco, l'isola di Alcatraz, il cui nome in spagnolo significa pellicano, ospita il carcere di massima sicurezza considerato tra i più duri al mondo. Soprannominato The Bastion, cioè la fortezza, perché ogni tentativo di fuga appare impossibile, il penitenziario apre le porte ad Alphonse Capone nell'agosto del 1934. Mentre gli viene posto al collo un cartello con il suo numero di serie, il 40886, Capone è ancora convinto che resterà pochissimo dietro le sbarre. Ha fatto ricorso ed è sicuro di riuscire a farla franca, finché lo attende una brutta sorpresa. Il suo ricorso viene respinto e gli viene diagnosticata la sifilide. La sua mente vacilla e ha bisogno di continue cure, come racconta lo storico del crimine Matthew Luzzi. La sifilide gli tolse l'intelletto. Fu ricoverato al Memorial Hospital di Baltimora e poi tornò a casa, in Florida, dai suoi. E infine, il 25 gennaio del 47, morì per arresto cardiaco. A Chicago ci sono 11 gradi sotto zero. Il funerale di Al Capone si svolge sotto una fitta nevicata. Anthony J. Accardo, guardia del corpo di Capone, chiede a tutti i rappresentanti della criminalità di presentarsi per manifestare il loro rispetto nei confronti dell'ex capo. La presenza massiccia di malavitosi dimostra l'importanza di Capone anche dopo la morte. Una strana accolita di gente si accalca intorno al feretro di Scarface per rendergli l'estremo saluto. I suoi familiari, i big boss della malavita di Chicago, i piccoli gangster di quartiere e, sorprendentemente, un importante agente federale, membro di spicco del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, Elliot Ness.